Una signora grassa mi rivolse un saluto, per la cui breve durata i più diversi pensieri fecero ressa nella mia mente. Esitai un istante a risponderle, nel timore che, non riconoscendo le persone meglio di me, mi avesse scambiato per un altro. Poi la sua sicurezza mi fece invece accentuare, per paura che fosse una persona di cui ero stato intimo, l'amabilità del mio sorriso, mentre i miei sguardi non cessavano di cercare nei suoi tratti il nome che non trovavo. Come un candidato alla maturità liceale, incerto, fissa il volto dell'esaminatore e spera, invano, di trovarvi la risposta che farebbe meglio a cercare nella propria memoria, io fissavo i lineamenti della signora grassa. Mi parve che fossero quelli di Madame Swann. Il mio sorriso prese così una sfumatura di rispetto, mentre la mia indecisione cominciava a svanire. Allora, dopo un attimo, sentii che la signora grassa mi diceva: «Mi state prendendo per la mamma. In effetti comincio ad assomigliarle molto», e riconobbi Gilbert. Parlammo molto di Robert. Gilbert ne parlava in tono deferente, come se si fosse trattato d'un essere superiore che teneva a mostrarmi d'aver ammirato e capito. Ci ricordammo a vicenda come le idee che egli esponeva un tempo sull'arte della guerra, perché spesso a Tansonville le aveva ripetuto le stesse tesi che io gli avevo sentito esporre a Doncier e in seguito, si fossero spesso, e comunque su un gran numero di punti, dimostrate vere durante l'ultima guerra. Non so dirvi fino a che punto mi colpisca ora, e anche durante la guerra, ogni minima cosa che mi diceva a Doncier, le ultime parole che ho sentite da lui, quando ci siamo lasciati per non rivederci più, furono che aspettava Hindenburg, generale di stampo napoleonico, a uno dei prototipi delle battaglie di Napoleone, quella intesa a separare due avversari, forse, aveva aggiunto, gli inglesi e noi. Ebbene, un anno dopo la morte di Robert, un critico che lui ammirava profondamente e che esercitava visibilmente un grande influsso sulle sue idee militari, Henri Bidou, ha detto che l'offensiva di Hindenburg nel marzo del 18 era la battaglia di separazione di un avversario ammassato contro due avversari in linea, manovra che riuscì all'imperatore nel 1796 sull'Appennino, mentre la fallì nel 1815 in Belgio. Poco prima, parlando con me, Robert aveva paragonato le battaglie a drammi in cui non è facile capire che cosa volesse l'autore, o in cui questi ha cambiato proposito strada facendo. Ora, per quell'offensiva tedesca del 18, è probabile che, interpretandola in questo modo, Robert non sarebbe stato d'accordo con Bidou. Ma altri critici pensano che il successo di Hindenburg in direzione di Amiens, poi la sua sosta forzata, il suo successo nelle Fiandre e di nuovo la sosta abbiano fatto, in modo tutto sommato accidentale, di Amiens e poi di Boulogne, degli obiettivi che in partenza non si era prefissi. E poiché ciascuno può rifare un dramma a modo suo, c'è chi vede in questa offensiva l'annuncio d'una marcia fulminea su Parigi, chi disordinati colpi di maglio per distruggere l'esercito inglese. E anche se gli ordini dati dal capo contrastano con questa o quella concezione, i critici avranno sempre modo di dire, come Mounet sull'I a Coquelin, il quale gli assicurava che il Misanthrope non era il testo triste, drammatico che lui voleva recitare, già che Molière, per testimonianza dei contemporanei, ne dava un'interpretazione comica e, recitandolo, faceva ridere, ebbene, vuol dire che Molière si sbagliava. E sugli aeroplani? Vi ricordate quando diceva, aveva delle espressioni così belle, bisogna che ogni esercito sia un argo dai 100 occhi? Ahimè, non ha potuto assistere all'avverarsi delle sue parole. E invece sì, replicai. alla battaglia della Somme, ha ben visto che hanno cominciato con l'accecare il nemico cavandogli gli occhi, distruggendo i suoi aerei e i suoi palloni frenati. Già, è vero. E siccome, da quando non viveva più che per l'intelligenza, era diventata un po' pedante, sosteneva anche, Robert, che si sarebbe tornati ai mezzi antichi. Sapete che in questa guerra le spedizioni di Mesopotamia, questo doveva averlo letto a suo tempo negli articoli di Brichot, evocano continuamente, immutata, la ritirata di Senofonte. E per andare dal Tigri all'Eufrate, il comando inglese si è servito di bellune, barche lunghe e strette, gondole di quel paese di cui si servivano già i primi caldei. Queste parole mi davano appieno il senso di quella stagnazione del passato che in certi luoghi, per una sorta di peso specifico, si immobilizza all'infinito, facendo sì che lo si ritrovi tale e quale. C'è un aspetto della guerra di cui Robert cominciava, credo, a rendersi conto, disse a Gilbert, e cioè che essa è umana. La si vive come un amore o come un odio. La si potrebbe raccontare come un romanzo. E dunque, se uno s'ostina a ripetere che la strategia è una scienza, questo non lo aiuta affatto a capire la guerra, perché la guerra non è strategica. Il nemico non conosce i nostri piani più di quanto noi sappiamo quali fini persegua la donna che amiamo. E quei piani, forse, non li conosciamo neanche noi. I tedeschi, nell'offensiva del marzo del 18, avevano come scopo la conquista di Amiens? Non lo sappiamo. Forse loro stessi non lo sapevano, e sono stati gli eventi, la loro avanzata a ovest verso Amiens, a determinare il loro progetto. Anche supponendo che la guerra sia scientifica, bisognerebbe comunque dipingerla come Elstir dipingeva il mare, nell'altro senso. E partire dalla fede, dalle illusioni che si rettificano a poco, come Dostoevsky racconterebbe una vita. Del resto, è troppo evidente che la guerra non è strategica, ma, semmai, medica, già che comporta imprevisti che il clinico poteva sperare di evitare, come la rivoluzione russa. Ma a causa delle letture fatte a Balbec, non lontano da Robert, confesso che ero più impressionato, come nella campagna di Francia, di ritrovare la trincea di Madame de Sévigné, così in Oriente, a proposito dell'assedio di Kut el-Amara, Kut l'Emiro, allo stesso modo che noi diciamo «Vaux le Vicomte et Bayeux l'Évêque», avrebbe detto il curato di Combray se avesse esteso la sua sete etimologica alle lingue orientali, di veder tornare, nei pressi di Baghdad, quel nome di Bassora che compare tante volte nelle Mille e Una Notte e che è la tappa consueta, dopo aver lasciato Baghdad o sulla strada per tornarci, per imbarcarsi o al momento dello sbarco, molto prima che del generale Townsend e del generale Gorringe, ai tempi dei califfi di Sindbad, il marinaio.